Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Troppa religione fa male, qualunque essa sia. Questo è l'incipit, ironico, anche un po' caustico, del romanzo Carciofi alla Giudia, scritto da Elisabetta Fiorito, pubblicato da Mondadori. Elisabetta Fiorito, come dire, una vecchia conoscenza di Radio 24, perché è la nostra cronista parlamentare a Roma. Quindi, come ogni tanto facciamo quando intervistiamo persone che conosciamo, lo dichiariamo prima. Dichiariamo che siamo amiche, che siamo colleghe, quindi prendete quello che diciamo come meglio credete. Elisabetta, allora, parliamo del tuo romanzo, che racconta la storia di una giovane donna, insomma di una quarantenne, Rosa Maria, è ambientato a Roma nel 2014. Lei è una donna piuttosto indipendente, autonoma, diciamo femminista, razionale, agnostica, e questo particolare è importante, poi vedremo perché. Single, che a un certo punto della sua vita incontra un uomo, David, molto diverso da lei. Sì, appunto, Alessandra. David è un ebreo tripolino osservante, non ortodosso, però comunque che rispetta la maggior parte delle regole della religione ebraica, che sono moltissime, e Rosa Maria a un certo punto si trova a sbattere contro questo muro di questa religione molto particolare e anche a sbattere contro tutti i pregiudizi che ancora ci sono nei confronti degli ebrei e che lei non immaginava ci fossero anche all'interno della sua famiglia. Ecco, la concezione di Rosa Maria appunto è quella che troppa religione fa male, qualunque essa sia. Come si trova catapultata in un mondo, in una famiglia dove invece la religione è importante e soprattutto è una religione che detta delle regole precise che vanno rispettate? Rosa Maria capisce che, per esempio, per un ebreo la religione è anche una questione identitaria quando si è una minoranza, e gli ebrei sono la minoranza nel mondo perché sono solo 12 milioni, e quindi riesce a barcamenarsi tra questo uomo che ogni tanto la fa arrabbiare, no? Perché magari vuole buttare la pasta perché è arrivata Pesach, che è la Pasqua ebraica dove non si mangiano i lieviti, e lei gli fa la filippica terzomondista e dice: no, non si butta il pane, la pasta lo conserviamo magari in auto, però dobbiamo assolutamente rispettare, ci sono persone che muoiono di fame nel mondo. E dall'altra parte però si trova anche a dover sopportare la madre che, un po' per gelosia più che per antisemitismo, non fa altro che criticare questo personaggio, questo David, e tutte le usanze della religione ebraica. Ecco, in questo romanzo si racconta in modo, diciamo, ironico, divertente, l'incontro, scontro fra virgolette, fra due culture, due tradizioni, due religioni diverse. Questi scontri spesso avvengono in cucina, non è un caso che tu l'abbia intitolato Carciofi alla Giudia, e prima facevi riferimento appunto al fatto che durante la Pasqua ebraica vanno eliminati proprio da casa tutti i cibi, gli alimenti lievitati. Oltre che però sulla cucina, i due iniziano a discutere anche, per esempio, sull'educazione del figlio, perché non abbiamo detto che Rosa Maria all'inizio del romanzo, diciamo prima di pagina 100, rimane incinta di Davide, quindi, come dire, la coppia diventa più consolidata. Eh sì, allora un altro problema che si pone a Rosa Maria, e questo si affronta già nelle prime pagine del romanzo, è che Rosa Maria va a parlare con il rabbino capo perché lei è incinta ed è incinta di un maschio, che vuol dire che bisognerà fare la Milà, ed è la circoncisione rituale che ogni ebreo fa all'ottavo giorno. Ora immaginiamoci una donna razionale che si ritrova a dover fare questa circoncisione in un momento della sua vita particolare, a questo ebreo tripolino di cui si è innamorata, la madre le sta scolfiato sul collo, e lei poi tutto sommato trova che questa sia una pratica oramai da accantonare, cioè la scelta andata avanti, prima magari poteva essere una pratica igienica, però adesso si può anche non fare. E purtroppo però non la pensa così David, quindi lei andrà a parlare col rabbino e questa circoncisione si farà. Allora, da una parte abbiamo visto c'è cioè, Rosa Maria, agnostica di famiglia, diciamo cristiana, cattolica, però tendenzialmente agnostica. Dall'altra parte c'è David, ebreo osservante di famiglia, ebreo osservante, e tutto si svolge nella Roma del 2014, dove chiaramente la crisi economica la fa purtroppo da padrone, perché entrambe le famiglie hanno un'attività commerciale che sta andando a scatafascio. In particolar modo la famiglia di Rosa Maria ha un mobilificio che di fatto è fallito. Come si ripercuote questo aspetto economico nella vita dei due protagonisti? Ecco, io ho voluto ambientare questo romanzo nella Roma del 2014, però nella Roma dei piccoli imprenditori, dei commercianti, non nella Roma quella legata allo Stato, alla politica. E il fatto che, per esempio, Rosa Maria, che di mestiere fa la regista teatrale, però ha questa famiglia d'origine che aveva un mobilificio, si trova a un certo punto con le spalle al muro di questa crisi molto molto terribile che ha colpito tutta l'Italia. In particolare la famiglia di Rosa Maria aveva un mobilificio che è fallito e il fratello maggiore è scomparso, ha fatto perdere le sue tracce, quindi il romanzo a un certo punto si tinge un po' di giallo, anche se non è un thriller, non è un giallo, è un romanzo comico, scritto in modo comico, che però ha anche risvolti drammatici. Ecco, e quindi Rosa Maria si dovrà anche sopportare i genitori che a una certa età, avendo subito questo tracollo, sono anche un po' andati fuori di testa. C'è una domanda che non facciamo mai al cacciatore di libri, cioè non chiedo mai agli scrittori se il romanzo è autobiografico, perché si sa che ogni scrittore mette sempre un pezzettino di sé in quello che scrive. In questo caso però tu l'hai dichiarato apertamente che ti sei ispirata alla realtà, nel senso che tu nella vita vera hai sposato un ebreo tripolino appunto. Quanto dell'aneddotica, diciamo, tua personale hai riportato un po' in questo romanzo, e c'è qualcosa di questo scontro sempre fra virgolette che ti fa ancora oggi sorridere? Un po' sì, un po' ci sono stati questi scontri, soprattutto per il cibo, come dicevamo, perché le regole sono molte, e le regole dell'alimentazione ebraica sono veramente tantissime e difficili da seguire. Si mangia solo il pesce con le squame e con la spina, si mangia solo la carne kasher, non va mischiata la carne con il latte, a seconda delle festività ci sono ancora più proibizioni. Quindi chiaramente tutti questi scontri, no? Mio fratello mi diceva sempre, ma che gli importa Dio se tuo marito, che non si chiama David ma si chiama Gerard, mangia le cozze? Io facevo, vabbè, a Dio non importa nulla, però a Gerard sì. Allora sai, io ho cercato un pochino di esagerare quello che succedeva ovviamente nella vita reale e metterlo in un romanzo. E poi è una questione personale, io l'ho dichiarato apertamente che mio marito è ebreo tripolino, perché non mi sembrava giusto scrivere di cose che non si conoscono, soprattutto poi riguardo a una minoranza così importante dalla storia difficile nel nostro paese come quella ebraica. Insomma, si può ridere anche delle diversità religiose in un momento in cui tutti naturalmente pensiamo agli aspetti più drammatici dello scontro religioso, invece tu l'hai portato in maniera ironica, leggera, nel senso bello del termine. Sì, perché pensa che a un certo punto la famiglia di Rosa Maria e David si incontrano al Circeo a Ferragosto e Rosa Maria compra i polli kasher, che vuol dire che sono stati uccisi secondo il rituale, poi sono stati dissanguati, e quindi c'è tutta una presa in giro dei genitori che arrivano, ognuno che arriva le dice, ma questi polli sembrano un po' pallidi, che cosa hanno fatto? Non era meglio prendere quelli ruspanti? E lei poverina dice, ma no. Allora poi la madre va a messa perché deve chiedere un miracolo, e Rosa Maria fa, ma che oggi è tipo il supermercato, la Madonna stacca i miracoli, no? Come se fossero i bigliettini, avanti il prossimo, no? Ecco, io sì, ho voluto ridere e sorridere della religione in un mondo in cui però purtroppo le religioni stanno diventando troppo ortodosse, e poi hanno anche degli aspetti in certi casi purtroppo violenti. Ecco, bisogna ritornare a pensare che la diversità è ricchezza e che la diversità religiosa anche è ricchezza, e non pensare che la religione mia è quella lì che è nel giusto e le altre sono tutte quelle che sono nel torto. Ecco, questo era un po' il significato. E allora, se volete divertirvi, il romanzo si intitola Carciofi alla giudia, l'ha scritto Elisabetta Fiorito, collegata con noi da Roma, l'abbiamo detto, giornalista di Radio 24. Qualcuno dirà: ah, ma l'avete organizzata, conflitto di interessi. Noi l'abbiamo dichiarato prima, vero Elisabetta? Certo, poi è proprio conflitto di interessi, no, scherzo. Assolutamente no, quindi noi lo diciamo, lo dichiariamo apertamente. Il libro, vi ripeto, è divertente e fa anche riflettere, perché appunto gira tutto intorno un po' all'aneddotica, agli scontri che possono avvenire fra diversi modi di pensare, diverse religioni. Carciofi alla giudia, Elisabetta Fiorito, pubblicato da Mondadori. E visto che siamo a fine agosto, possiamo fare dei progetti per i fine settimana di settembre, magari per andare in uno dei tanti festival culturali letterari che ci sono in questo periodo. Allora, ve ne cito due più che altro in ordine cronologico, perché settembre veramente è un mese pieno di questi appuntamenti. Dal 1 al 3 settembre c'è il Festival della Mente a Sarzana, provincia di La Spezia. Si tratta della 14ª edizione. È un festival dedicato alla creatività e alla nascita delle idee. Ci sono queste tre giornate con circa 65 relatori italiani e internazionali, una quarantina di appuntamenti fra incontri, workshop, spettacoli. Allora, il filo conduttore di questa edizione, sul quale si confrontano scienziati, filosofi, scrittori, storici, artisti, psicoanalisti, designer, e la rete. Rete intesa naturalmente come web, ma anche rete intesa come insieme delle relazioni umane, ma anche reti neurali nelle neuroscienze. Infine anche come concetto di rete della solidarietà. Ci sono diversi scrittori come Michele Mari, Edoardo Albinati, Marcello Fois, ma anche lo psicanalista Massimo Recalcati, lo scrittore e divulgatore scientifico Marco Malvaldi. In qualunque caso trovate tutto il programma sul web festivaldellamente.it dal 1 al 3 settembre. E poi, proseguendo in ordine cronologico, abbiamo dal 6 al 10 settembre a Mantova il tradizionale Festival Letteratura, arrivato alla 21ª edizione. Impossibile fare una panoramica di tutti gli incontri perché sono veramente tanti, li possiamo, diciamo, raccogliere un po' per aree tematiche. Ci sono una serie di autori che diciamo hanno vissuto la condizione di profughi o che parlano nei loro romanzi delle guerre di oggi e di ieri. Ci sono scrittori che hanno trasferito le proprie storie personali o parte della propria biografia nella finzione letteraria, come per esempio Teresa Ciabatti, Michele Mari, Alberto Rollo. Scrittori che hanno fatto di una città la protagonista dei loro romanzi, come Domenico Starnone o Mauro Kovacic. Per gli appassionati di giallo, al Festival Letteratura di Mantova c'è Elizabeth George, ma poi c'è anche l'italiano Carlo Lucarelli, Mirko Zilai, Marcello Fois e Maurizio De Giovanni. Ancora sempre al Festival Letteratura di Mantova vi segnalo la presenza, per i più piccoli ma anche per i più grandi, di Francesca Cavallo ed Elena Favilli, che sono le autrici del caso editoriale di questo 2017, ossia Storie della Buonanotte per bambine ribelli. Tra l'altro, se volete, trovate l'intervista di Elena Favilli anche sul sito di Radio 24 nella sezione del cacciatore di libri. Ora facciamo una breve pausa e poi torneremo a parlare di libri. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Il cacciatore di libri. Sulla copertina c'è la foto di un gelato, un cono gelato che sta, diciamo, iniziando a sciogliersi. Il romanzo si intitola L'imperfetta meraviglia, l'ha scritto Andrea De Carlo, pubblicato da Giunti. De Carlo è uno scrittore, diciamo, molto popolare, ricordiamo così alcuni titoli: il primo romanzo, famosissimo Treno di Panna, che addirittura aveva avuto l'introduzione di Italo Calvino, poi ne cito così un po' a caso Macno, Due di Due, grandissimo successo, Arco d'amore, Cuore primitivo.